Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Bentornati, bentornati in questo sabato sera qui sulle frequenze di Radio Wombat con Tonight Alive. E come avrete potuto intuire, spero, dalla sigla di stasera, ci aspetta un sabato sera, una serata in compagnia di David Bowie nella sua incarnazione di Ziggy Stardust, in particolare nel suo periodo glam di inizio anni 70. E qui con me per questa puntata, direi a questo punto speciale di Tonight Alive, non potevo che invitare la più grande esperta di David Bowie che io conosca, perché se no a quest'ora ero già qua a brancolare nel buio, ed è qui con me per questa puntata di questo sabato sera, Bloody Grazie, Dalai Mary. Dama. Bentornati a No, sono tutti. io che ringrazio te, perché se no a quest'ora ancora non avevo neanche acceso la luce. E no, vabbè, ma in realtà sì, meno male che hai detto la più grande esperta di Bowie che tu conosci, perché cioè io in realtà non è che ora sono, però sì, sono un Ma lo po' sei, fissata. che sei la più grande esperta di Bowie che io conosca. Forse l'unica anche. Non Non lo so, comunque so, sì, dovrei sono un po' indagare. maniacale, me ne rendo conto, un po' fissatina, e quindi in quanto fissata e nerd, allora sì, ti posso aiutare in questo tuo Appunto, viaggio. quale migliore ospitata se non stasera, direi. E siamo partiti con Starman. Sì, perché allora non andremo in ordine temporale perché non ci sembrava, boh, non è che siamo così Appunto, banali. essendo puntata speciale Eh sì. stasera non andremo in ordine Ma no, temporale. ma perché dovremmo andare in questo banale ordine temporale? No, in realtà partiamo da. Allora, innanzitutto, come dicevi giustamente te, ci concentreremo su solo un pezzetto dell'enorme discografia di Bowie, perché altrimenti altro che una Dell'infinita. puntata. E tra l'altro, dicevamo a microfoni spenti, non è che il resto, o perlomeno tutto il resto che ha fatto, ci entusiasmi. Cioè, a me in particolare piace moltissimo questo periodo qui, dei primi anni 70. Tante altre cose che ha fatto dopo, tante me ne sono piaciute, ma tante altre cose onestamente non mi hanno entusiasmato. Sicuramente non al pari di questa, e alcune invece proprio non mi sono proprio arrivate, perlomeno. Quindi, insomma, figuriamoci, cioè, solo questo pezzettino, però questo pezzettino è già di per sé un infinito, un bel mondo. Vabbè, sì, anche direi una perfetta sigla per identificare la parte di carriera che andiamo a trattare stasera di questo artista con molte sfaccettature, Sì, come è perché stato Bowie. infatti in realtà Ziggy è uno dei suoi Delle sue personaggi. incarnazioni. Sì, c'è stato il Duca Bianco, ce ne sono stati tantissimi, però Ziggy forse è quello più emblematico per certi aspetti, sicuramente il primo. Beh, no, in realtà poi c'è avuto altri personaggi prima, però meno noti, ecco, diciamo. Diciamo quello che più l'ha caratterizzato Sì. nell'intero ambito della carriera, forse il suo alias più Anche conosciuto. perché forse quello che è meglio arrivato, nel senso che è quello che ha scatenato più cose. Sì, Cioè, gli sì, altri sì. suoi personaggi sono stati importanti, volendo, molto interessanti, però non hanno creato la stessa, chiamiamola, rivoluzione che ha creato invece il personaggio di Ziggy Stardust. Sicuramente non da solo, perché comunque era inserito in un contesto, era inserito nel contesto dei primi anni 70 in Inghilterra, e non solo, era inserito nel contesto del glam rock, e quindi insomma non è che lui da solo abbia inventato qualcosa, Faceva però parte un bel po' ce n'ha messo, di una insomma. corrente, di un movimento Sì, musicale di quel periodo, sicuramente. esattamente. Musicale non solo, perché poi vedremo che David Bowie è stato un artista dalle mille sfaccettature, anche solo per la sua connessione con il teatro e Sì. con quanto ha riportato il teatro sui palchi del rock e del pop. Ma sì, ma poi tra l'altro, ora io non per appunto cercherò di essere il meno entusiasta possibile, ma in realtà non ci riuscirò. Cioè, comunque, cioè, ne verranno fuori luccichini e cuoricini, quindi vabbè, sono un È po' giusto sia così, pietosa, mi dai, è rendo conto. giusto, è giusto. Perdonatemi, ma non è una puntata di parte, ecco. Però diciamo che effettivamente quello che anche ha fatto lui di molto interessante in questa prima parte è il creare, sì, e dare, aiutare a creare un mondo, una corrente, un movimento anche vogliamo, se vogliamo, prima che ci fosse una possibilità di questo tipo, perché non ci dimentichiamo che il punk non era mica nato. Ancora no. E quindi la controcultura in realtà era un concetto che veramente aveva ancora da avvenire, perché sì, c'era la controcultura americana, gli hippie, eccetera, ma poi vedremo come poi spesso di controculturale c'era ben poco Poco, e dentro quella. poi già affrontato in diversi temi di Tonight Alive, sappiamo com'è finita appunto come si è infranto il grande sogno dell'estate dell'amore e della controcultura hippie. Alla fine poi si è infranto in mille pezzi nella dura realtà degli anni 70 e si è sbriciolato così, insomma. Sì, tra l'altro nell'inizio degli anni 70 proprio non era quello che soprattutto i giovani avevano, di cui avevano bisogno. E quindi non è un caso che un personaggio come Ziggy Stardust o come i T-Rex, gli Sweet, cioè in generale del glam, non è un caso che abbiano avuto tutto questo successo. Non è una Certo. creazione commerciale a tavolino che viene spinta e quindi era in realtà un indice di una controcultura che stava nascendo e era un po' a doppio senso, cioè da un lato si cavalcava un mondo che c'era e dall'altra parte questo mondo sentiva la necessità di una sua musica, di una sua forma culturale per esprimersi. Diversa da quella che era predominante nel periodo in cui non si, in, nella quale non si riconoscevano più. Eh sì. Starman, siamo partiti da Starman perché in effetti non l'ho detto, però fa sempre parte di The Rise and Fall of Ziggy Stardust, che appunto quindi il disco dove È il disco centrale di stasera perché è quello proprio. sì, dove arriva È il Ziggy. centro dell'epopea di Ziggy Stardust, come dice anche il titolo, No, appunto. ce lo suggerisci. Appunto. E Starman è interessante perché io non so se avete presente il videoclip correlato a questa canzone, perché tra l'altro Bowie fu uno dei primi a lanciare il video come accompagnamento Momento. dei brani musicali. Quindi a sfruttare quello che allora era un nuovo mezzo, Totalmente, perché certo. non, Certo. in pochissimi allora sfruttavano quello che allora era un nuovo mezzo di Eh comunicazione. sì, poi lo vedremo, cioè Bowie aveva molto bisogno anche di essere visto, non solo di essere Certo, ascoltato. la parte visuale e glamour Lo racconti? era determinante Come la racconti? nel suo personaggio, Eh sì. sicuramente. Sì, come te la spiego Bowie con lo zip, lo zot sulla faccia? Cioè, una cosa che se non lo vedi non No, lo puoi capire. lo devi vedere, o anche Eh le sì. sue mise, direi. Sì, la sua mimica e tutto. E quindi in uno di questi video, che in realtà non era un videoclip nella forma con la regia, con una narrazione, non era questo tipo di videoclip, ma semplicemente è il girato di un live durante Top of the Pop. Quindi voi immaginate trasmissione Ultra istituzionale ultra. inglese Cioè, ricordiamoci che la BBC al tempo, cioè la roba che passava nella BBC era sostanzialmente classica. Classica, classica, classica, oppure qualcosa di jazz, di blues, però soprattutto magari magari di Poppettino all'Acqua di Rose lo poteva. qualche Top of the Pops ce lo mettevano, Top of the insomma. Pops ha creato un po' uno spartiacque, Sì, diciamo, no? un'apertura verso una cultura più popolare, ecco. E più giovanile anche, l'ha svecchiata un Sicuramente. bel Anche po'. perché prima mi sa che c'erano proprio delle gran ragnatele, Sì. una grandissima, un bello strato di polvere negli studi della Sì, si BBC. aprirebbe un mondo anche solo a parlare di questo. C'è Ah sì, un'intervista interessantissima a sicuramente. John Peel che ti racconta quando è Esatto. arrivato lui, che cosa ha Sì, trovato. Cioè, no, mamma mia, vabbè, appunto. cioè, proprio la moquette con gli strati di E polvere. appunto nella puntata di John Peel, quando proprio inizierà con le famose Feels, quelle che poi diventeranno le Feel Session. E appunto è stato un po' un terremoto all'interno totale della BBC, proprio come a livello di impostazione della programmazione, ecco. Eh sì, e voi immaginate che quindi Top of the Pop, che comunque era sì appunto la trasmissione che in qualche maniera aveva giovanile, questo ruolo, sì, insomma già anni luce più avanti rispetto a quello che c'era finora, però comunque sia Top of the Pop, cioè l'equivalente della Rai, sì. Cioè da noi c'era Canzonissima a quel tempo, l'equivalente. O l'equivalente magari degli anni 80-90, tipo il, che ne so. Sì, com'era quella roba? Non mi ricordo come si chiamava. No, ecco. quello lì. Quella di Telegatto. Il telefono mi ricordo, il roba da Telegatto. Ecco. Quella roba lì. Sì, diciamo, però lì domenica pomeriggio sulle reti nazionali. Sì, ecco. Solo che lì la differenza era che è già sdoganata e già super commerciale. A Top of the Pop ci andavano tutti, ci andavano i New York Dolls, ci andavano, cioè sì, gli hip hop, ci andava gente che non è che era patinata, tutt'altro. Cioè ci andava chiunque non facesse parte di quel vecchio mondo polveroso di cui si parlava prima. Esatto. E ricordiamo, non c'era il punk, cioè non c'erano i circuiti alternativi, non c'erano le autoproduzioni, non c'era altro modo di vedere cose se non tranne quello. Cioè, facevano se tu già magari scandalo i beat. esatto, cioè i capelloni già sì. E mio Dio. Mio Dio. E già potevo capire. Quindi, Top of the Pop, il contesto è questo: Starman, registrazione live, loro Bowie incarnava il personaggio di Ziggy Stardust, di cui parleremo poi dopo, e arriva lui e gli Spiders from Mars, che era il suo gruppo, messo su per l'occasione con Mick Ronson, e vedremo tutti gli altri, arrivano tutti vestiti con i loro costumini, glam, quindi super attillati, molto femminili, truccatissimi, con un trucco molto androgino, soprattutto Bowie ovviamente, perché gli altri in realtà, poi lo vedremo nel dettaglio, Ronson aveva poco da truccarsi. Sì, era già così. Cioè, i lineamenti erano molto maschili e c'era poco da mettersi il rossetto, cioè comunque sembrava sempre un uomo, mentre invece Bowie era già molto androgeno di suo, sì. Quindi appariva proprio come un alieno. Arrivano loro, fanno questa trasmissione, cioè questa apparizione, vestiti tutti così, e attaccano Starman, pezzo, parte, tutto quanto. Durante il brano cosa succede? Con un'attenzione, perché ogni movimento era pensato, non c'era niente di casuale in realtà, a un certo punto durante il pezzo Bowie, che anche lui sta cantando e sta suonando la chitarra, lo vedremo meglio dopo magari, però il chitarrista nella controcultura degli hippie, della controcultura americana, era di due tipi: o il chitarrista macio, maschio, in piedi, con la chitarra a tracolla che fa tutti Jimi Hendrix. Mm-hmm. Jimi Hendrix. Era così, o se no era John Bites, quindi seduta con la chitarra classica, certo, acustica. Acustica, messa, che faceva a sedere, certo, in una certa posa, molto composta, molto. Non si usciva da questo binario, cioè c'era o questo o l'altro. Lì cosa succede? Bowie, vestito fondamentalmente da donna, o comunque sia che recita la parte di un uomo vestito da donna, anche lui suona la chitarra, la suona in piedi, e inizia ad avere un misto di pose che sono un po' femminili e un po' maschili, quindi getta un po' il panico, caos, già solo questo. Mick Ronson, lui molto più maschile, pose molto più maschili, molto più mace, però anche lui in piedi con la chitarra. A un certo punto i due devono cantare insieme quando c'è il coretto, bene, e Bowie va accanto a Mick Ronson e gli mette un braccio intorno al collo in una posa molto tenera, se vogliamo, che da un lato poteva sembrare cameratesca maschile, di amicizia maschile, e dall'altro alludere a qualcos'altro. Questa semplice cosa, che vista adesso ti fa sorridere, creato il panico, la BBC è stata invasa di telefonate di genitori scandalizzati, completamente nei pazzi, che dicevano: cosa state mandando? Ma siete pazzi, qui è pieno di froci, oddio, mio figlio sta guardando sta roba. I figli completamente nei pazzi dal verso opposto, certo, finalmente in qualche modo liberati. Può sembrare una banalità, ma questa piccola cosa ha creato il panico, veramente il panico. Pensiamo anche alla società inglese degli anni 70, cioè ingessati vittoriani, quasi vittoriani, ancora. Quindi sì, c'è quell'ambiente lì, anche perché non pensiamo a Londra, cioè già a Londra, ma pensiamo alle piccole città, esatto, no? A Liverpool, cioè, che poi piccole, insomma. Ma insomma. Siamo alla estrema provincia, diciamo. Cioè, lì ha creato lo scompiglio totale. Ecco, questa era la prima intro... Questa era la premessa per farvi capire un po' dove andremo a parare. Dove andremo a parare stasera. E Bowie era sicuramente un genuino prodotto della Londra di fine anni 60 e inizio anni 70, come appunto ci ha appena detto qui Bloody Mary, di cui assorbì veramente tutte le istanze culturali e sociali. David Bowie, che in realtà si chiamava David Jones, incarna l'ideale di continua trasformazione del decadentismo. Era sicuramente influenzato dal suo lato folk, da Bob Dylan e dallo showman Anthony Newley, e sicuramente anche dall'estate psichedelica del 1967. Però un'altra sua grandissima influenza, come poi vedremo, connoterà tanto la buona parte della sua carriera, ma soprattutto gli inizi, sono appunto i mimi del Living Theatre e appunto un altro grande come è stato Lindsey Camp. Con cui studierà danza e mimica, appunto, e lo formerà sicuramente tantissimo. Lui è stato probabilmente nei suoi esordi. È stato proprio il vaso di Pandora, probabilmente, quello che gli ha fatto scoprire tutto un mondo. Sì. E sì, Lindsey Camp, che non smetteremo mai di compiangere, morto, ahimè, da poco. E quindi sì, l'incredibile, cioè effettivamente Lindsey Camp, anche a vederlo adesso, io sono stata a vederlo l'ultima volta che è venuto qui a Firenze, e ti lascia proprio sbalordita. E posso immaginare su un ragazzino, perché all'epoca era un ragazzino, cioè come Bowie, che cosa abbia potuto generare, appunto, dopo essersi fatto le ossa in giro per i gruppetti fondamentalmente rhythm and blues. I primi singoli in questo stile si possono addirittura trovare dalla metà degli anni 60, il primo forse nel 1964, ma sarà solo nel 1967 che realizzerà che più che cantare per un gruppo, il suo vero destino è quello del solista, e registrerà il suo primo album, sicuramente un album di folk pop molto delicato, omonimo, infatti si chiama David Bowie, del 1967. Che divertente, io devo dire, ce l'ho. Sicuramente è carino. È un altro genere, cioè è l'inizio, è da dove è partito, e ti fa capire anche l'influenza di questo suo inizio, da dove è partito, per poi elaborare il resto della sua carriera. E forse una delle canzoni più significative dei primi tempi, che poi non è stato neanche fatto uscire ma come singolo, ma come lato B, potrebbe essere The London Boys, che era fondamentalmente un inno al movimento mod. Beh sì, perché lui era un dandy comunque, soprattutto all'inizio, quindi non poteva che scegliere i mod, certo. Come poteva fare? E si può dire che l'inizio della popolarità arriva abbastanza inaspettata, direi, con Space Oddity, perché tra l'altro era stata scelta, se non mi sbaglio, per musicare le riprese del lancio di, non mi ricordo se di un satellite o di una missione comunque spaziale. Sì. E le aveva dato un grande risalto, e questo è stato, si può dire, il suo primo singolo di un certo successo. Sì, tra l'altro è interessante perché lui non è che poteva sapere di tutto quello che poi successe dopo, la camminata sulla luna, sì, tutte queste robe. Eppure, Space Oddity è particolarmente impressionante perché anche soltanto leggere il testo, ma anche la composizione della musica e tutto, questa idea di un astronauta che viene in qualche modo abbandonato da solo nello spazio e si ritrova in questa dimensione anche filosofica, vogliamo, della solitudine, cioè della solitudine dell'uomo che si sente solo in mezzo all'universo e che si guarda intorno e vede la Terra da lontano e si sente sostanzialmente perso, sì. È un qualcosa che poi dopo, vabbè, lui chiaramente era stato influenzato da vari film, da varie cose, da immaginario che già aveva questi, cioè 2001 disse nello spazio, chiaramente aveva tutto un qualcosa a cui attingere. Tra l'altro leggo proprio per commemorare il primo sbarco sulla Luna del 1969, infatti era stata composta nel 1968 e nel 1969 la sceglieranno i discografici per celebrare il primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Ah sì, e poi alla fine ha in qualche modo gettato questa luce su un aspetto che poi dopo è stato sviscerato molto meglio negli anni, nei decenni a venire. E non è un caso però che a tutt'oggi sia una delle canzoni più rappresentative quando parliamo di viaggi nello spazio in un modo un po' più profondo, insomma, che non sono soltanto la corsa allo spazio, ma la vediamo da un punto appunto da un punto di vista più filosofico dell'uomo che cerca di farsi domande su che cosa c'è fuori dalla Terra e che ne ha anche un po' paura poi, e quindi insomma non male, ecco, per essere un ragazzino. Non è niante male come diciamo esordio riconosciuto, per niente. E l'album, quello dopo, affidato alle cure per la prima volta del produttore Tony Visconti, è appunto Space Oddity del 1969, che tra l'altro conteneva la bella serenata Letter to Hermione, che a questo punto farei sentire. Sì. No, anche per fare un po' un punto su, sì, dove siamo. Sì, almeno li facciamo riprendere questi ascoltatori. E allora Ziggy Stardust, anzi in questo caso ancora David Bowie con Letter to Hermione, qui a Tonight Alive Radio Wombat. The hand that wrote this letter sweeps the billow clean. So rest your head and read a treasured dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? Quite sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide. When all the world is warm and tired, you cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say, but I can see it's not okay. He makes you laugh, he brings you out in style. He treats you well and makes you up real fine. And when he's strong for you. And when you kiss, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what I'm supposed to do, so I'll just write some love to you. Ci eravamo persi in discorsi, ovviamente, a cioè, microfoni spenti, mentre ci guardavamo le scalette, mentre ci ascoltavamo Letter to Hermione. Sì, Letter to Hermione fondamentalmente cos'era? Era la sua lettera alla sua ragazza del tempo. Sì, che poi, con cui poi è finita abbastanza male. E mi raccontavi appunto anche un episodio, cioè il gossip. Un gossip notevole su questa... su questa prima canzone. Eh sì, perché in realtà Hermione, loro si erano conosciuti da Lindsay Camp. Lei era una ballerina, attrice, insomma, si erano conosciuti lì. E Lindsay Camp non l'ha presa molto bene, perché comunque invece Bowie si faceva le storie con Lindsay Camp inizialmente. E Bowie, capirai, cioè, andava da, almeno come me lo sono figurata io, so un po' io, però più o meno l'idea mi sono fatta è che lui andava, era un giovane entusiasta di tutto, andava dove c'era da andare e assorbiva quello che c'era, prendeva e poi però ti smollava per il prossimo passo, cioè passava il carretto dei gelati dopo e andava di là. Lindsay Camp, cioè, nel frattempo c'è rimasto, diciamo, come... E c'è che mi è smollato così. E quindi niente, il povero Lindsay Camp è stato smollato, a quanto penso, per... O a quanto si dice, a quanto... Lui questa cosa l'ha detta in intervista, poi non è che dice esplicitamente che fosse Hermione, però insomma... Bah. Visto i tempi e visto insomma le vicende personali di Bowie, chissà. Si presupporrebbe di sì, ecco. Sì, sì, poi mettiamo le condizioni, se non ci fanno causa, perché sicuramente tutti stanno a sentire Radio Wombat in questo momento. Ma voi l'avete detto. Però ecco, il gossip è un po' quello e ovviamente anche lì parlava della fine del rapporto con appunto la sua compagna del momento, ma in realtà è un brano molto sincero, perché la fine di un rapporto vera, cioè non un simbolo, non lo so, non era una metafora, no, era proprio nuda e cruda, sì, per sì. Com'era, e con tutta la delusione, disillusione che tutto ciò rappresenta. E quindi, volendo, è un po' anche uno spartiacque tra il Bowie che non recita e il Bowie che invece poi vedremo recita, e come, e non vabbè. Perché quando recita è un'altra persona, come tutti gli attori, ma alla fine, non cioè, dimenticano se stessi, oltre, però oltre appunto oltre a essere cantante era anche un attore, esatto, con tutta la profondità del caso, ecco, cioè, non perché ha anche fatto film, insomma diversi film, in diversi film era proprio attore davvero, anche sì, poi gli riusciva sì. E quindi sì, questa parte qua è un po', volendo, uno dei tanti spartiacque, ce ne sono altri. Nella scaletta del live poi vedremo, ci sono altri, tra l'altro ora poi lo spiegheremo magari dopo, il live che ci andiamo a sentire non è l'ultimo veramente del tour di Aladdin Sane, non è quello del 73 all'Odeon, ma è un altro, e quindi la scaletta è leggermente diversa, per quello ci eravamo distratti prima perché stavamo guardando questa cosa, confrontando le scalette, sì. Se mi metti la scaletta dell'altra, sì. Di questa? Sì, giù. Ecco qua. Praticamente, allora, sì, una delle prime canzoni che suona durante il live, che invece non ci ascolteremo perché la scaletta non la prevede, è Wild Eyed Boy from Free Cloud. Quel brano lì è il brano, l'altro brano Spartiacque, ce ne sono diversi, ma insomma questo è uno dei più importanti. Non a caso lui nel live lo mette in medley, cioè lui fa un medley tra Wild Eyed Boy from Free Cloud e All the Young Dudes. Entrambi sono molto importanti perché Wild Eyed Boy from Free Cloud è fondamentalmente la canzone che Bowie dedica alla fine del rapporto, a proposito di fine di rapporti, la fine del suo rapporto con la controcultura hippie e americana che dicevamo prima, americana non solo perché lui non era americano, però insomma gli era arrivata evidentemente. Certo, Quindi tutta la ma fine poi delle alla fine illusioni. influenza da partì appunto dalla costa californiana e dalla costa ovest degli Stati Uniti per invadere il resto del mondo giovanile, ecco, Sì, perché poi arrivò ovviamente con un po' di tempo di sì, un latenza, certo lag. invase tutto il resto del globo, ecco. Sì, lui era appunto era uno dei tanti che erano rimasti affascinati dalla Summer of Love e tutto quanto. A un certo punto si scontrò proprio contro quelli che poi probabilmente furono i difetti fondamentali di questa controcultura. Non solo a livello di ingenuità ma proprio il fatto che, ad esempio, proponevano un modello sociale e culturale che poi, se lo andavi a analizzare fino in fondo, non era poi tanto diverso da quello che andavano a criticare. Perché, per esempio, un Bowie si scontrò contro il fatto che il tipico modello che veniva proposto dalla controcultura era eterosessuale, assolutamente, e comunque sia, se non attraverso il matrimonio, ma comunque sia riproponeva un modello familiare, invece la donna, l'uomo e i figli, e generalmente questo è il modello, l'amore romantico, e tutta una serie di canoni e di cliché che di fatto la controcultura non andava assolutamente, non solo non la scardinava, proprio la promulgava in qualche La maniera. rinsaldava forse ancora di più. Sì, totalmente, perché anzi, è come dire, sono l'eccezione che conferma la regola. E poi quello che facevano era un'altra cosa che creò una frattura grossa per Bowie, era il concetto fondamentale di naturalità, cioè quello che facevano gli hippie fondamentalmente era parlare in continuazione del concetto di autenticità e naturalità, cioè io valgo perché sono autentico, quindi salgo sul palco. Pensate a quello che c'era prima. Prima degli anni 60 c'era il rock and roll. Il rock and roll era teatrale, era per certi versi una scena. Pensate a un Chuck Berry, ma Sì, lo stesso se Elvis. parliamo del rock and roll, quello vero, ovvero il rhythm and blues, sì. Se parliamo del Certo. rock and roll No, vabbè. bianco. Sì, vabbè, certo. Però era teatrale nel senso che è stato di impatto, è stato Sicuramente per la sconvolgente. fisicità che avevano gli artisti sul palco e che fondamentalmente scandalizzava il pubblico ben pensante con queste mosse che sono arrivate ben molto prima di Elvis the Pelvis in Memphis, insomma. Assolutamente. Ma lo stesso Chuck Berry che Certo. metteva, cioè aveva proprio una messa in scena sul palco. Questa cosa gli hippie la rifiutano categoricamente. Quindi, tant'è che poi ci furono dei personaggi come Phil Oakes, ad esempio, che era un cantante, Cantato, sì, cantautore cantautore. del folk, Sì. che a un certo punto sdegna, cioè che a un certo punto anche lui ebbe un rifiuto per questa controcultura e questo mondo qua, e decise in una delle ultime sue performance, di salire sul palco completamente vestito d'oro, di paillettes d'oro, e fu devastato dai fischi, gente sconvolta, perché la cultura di quel momento, il pubblico di quel momento voleva identificarsi con chi stava sul palco, quindi non ci doveva essere differenza tra chi era sul palco e chi era sotto. Bisognava vestirsi tutti uguali in una maniera piuttosto omologata e molto poi a sacco di patate, nel Sì. senso, pensate appunto al tipico modo di vestire hippie, cioè, Sì. dove i generi vengono nascosti dal poncho, per esempio, ma perché tanto non è necessario ostentarli perché si sa bene chi è l'uomo e chi è la donna. Quindi, anzi, bisogna nascondere perché tanto si sa chi sta al suo posto. Quindi, questo mondo qua è l'esempio. Philox fu il primo che creò un po' di panico. Mi Poi. viene in mente, ora quando hai ricordato appunto Philox tutto vestito dorato, un altro che l'aveva fatto già un po' di anni prima, ma completamente in un altro ambito, e anche lui totalmente ostracizzato da pubblico e da critica, è stato San Ra. Beh, sì, San certo. Ra, San Ra, cioè, per tantissimi anni non è neanche stato considerato dalla critica un artista, un jazzista, non lo recensivano, pensavano che fosse un buffone. Sì. Sì, ma Invece è questa stato uno dei cosa. jazzisti più influenti che ci Questa sono cosa stati era in di quel una. periodo. Anche di una violenza notevole, nel senso che l'atteggiamento io sono la normalità, io sono la naturalità, io sono la verità in qualche Certo, maniera. bisogna vedere come la definisci questa naturalità e questa verità. E Ma quello è quello il cioè, punto, come ti appunto. permetti? E poi, cioè, io sono la naturalità, tutti gli altri. Boh, se non ci rientrano sono strani. Sì. Quindi immaginate che c'era tutto un mondo di ragazzini spesso che non ci si sentivano e loro dicevano, Non boh, si però sentivano hippie. non si sentivano hippie, magari non si sentivano dentro quel modello appunto Non molto si sentivano hippie, eterosessuale. ma non si sentivano neanche sbirri. Capito? E Quindi, dicevano, oh, come si e fa? Cioè, non ci sentiamo noi cosa né siamo? carne né pesce e molti, molto spesso magari non avevano chiare le cose, no? Perché boh, una delle cose veramente importanti che ha fatto è rendere la fluidità del genere, dell'identità e tutto, e quindi, ma non necessariamente bisogna dire cosa è naturale e cosa no, cosa è giusto, cosa è Certo. sbagliato, cosa è consono e cosa no. E quindi, fondamentalmente, questa canzone Wild Eyed Boy from Free Cloud racconta la fine di questo sogno, la delusione, con anche una veramente grossa dose di arrabbiatura. Cioè, Bowie in questo testo è molto incazzato, li devasta abbastanza, e anche perché ne parla come una cultura di persone molto grette, molto poi in realtà appunto finte e molto. Piano con i termini, io mi sento un po' hippie. No, dai, che hip, sei meglio di così. E quindi, insomma, ne parla veramente male, incazzatissimo e tutto. E non a caso c'è il medley sfuma in All the Young Dudes, che è il pezzo emblematico del glam, che è una celebrazione della controcultura glam, del movimento glam, dove dentro ci sono tutti i personaggi, si cita Bolan, si citano gli Sweet, un po' tutti, ci sono tutti, e quindi è il suo modo di dire, bene, ok, è finita un'era, o ne sta cominciando un'altra. Sì, e a questo punto farei sentire il prossimo pezzo, anche se vorrei appunto fare questo passaggio perché appunto prima di passare al prossimo pezzo eravamo rimasti fermi a Space Oddity, ovvero il primo grande successo a livello di pubblico di David Bowie. Ma uno dei tanti, un altro grande cambiamento nella carriera di David Bowie è stato probabilmente Man Who Sold the World, il suo album del 1970, appunto il primo affidato alle cure del produttore Tony Visconti, avevo sbagliato, è questo, il primo prodotto da Visconti. Il primo album post-esplosione del glam con i T-Rex di Mark Bolan e appunto dalle cronache dell'epoca Bowie dopo la registrazione di questo disco ne riemerse completamente cambiato, proprio in un nuovo personaggio, appunto, passando dal folk rock e da Space Oddity, arrivò a quello che era quasi un hard rock che andava di moda in quel 1970, ovvero sì, l'album The Man Who Sold the World, che nel 1970 non aveva avuto poi così successo, anzi aveva avuto, sì, è vero, era stato abbastanza deludente quel riscontro delle vendite, è stato rivalutato poi dopo, è stato molto rivalutato negli anni successivi, e comunque un album che poi, rivedendolo poi all'interno della discografia di Bowie, ha tutto un suo peso visto dopo, anche soprattutto a livello di a livello sonoro, appunto è l'album, si può dire l'album hard rock della discografia di Bowie. Eh sì, perché eravamo ancora ancora non c'era stata sta cesura di cui parlavamo, quindi c'erano ancora un po' di influenze che si facevano valere, sì, ma ancora, però beh, già qualcosa però si inizia a sentire, sì, perché sì, c'è già. Anche i testi sono molto, anche lo stesso The Man Who Sold the World, insomma, è piuttosto arrabbiatino, certo, sì. Poi sì, magari quelli più giovani se lo ricorderanno per la versione che ne hanno dato in Nirvana nel loro Unplugged in New York, sì, del 91, sì, con i loro golfini, sì, con i loro golfini da Seattle. Sì. E appunto, ma anche nella vita proprio personale di David Bowie, questa fine degli anni 60 sono un crocevia determinante, appunto dalla sua vita personale nascerà poi l'ennesima evoluzione del suono di Bowie. Infatti alla fine degli anni 60 diverse cose a livello personale lo fanno cambiare profondamente, ad esempio la morte del padre, la fine del rapporto con la famosa Hermione. Quella di prima. Esatto, con la tipa di prima, oppure il fallimento del suo laboratorio artistico a Beckenham. E soprattutto, come vedremo poi anche in altri pezzi di Bowie, il peggioramento delle condizioni mentali del fratellastro Terry, che soffriva di depressione e allucinazioni schizzoidi. Sì, lui era, cioè Bowie in realtà era, tutta la biografia di Bowie è costellata di continue ossessioni che Bowie aveva, di sentirsi schizofrenico, cioè aveva il terrore di essere schizofrenico. Perché diceva che soprattutto dalla parte della madre c'erano stati diversi casi di... Sì. Di sbarellamento. Eh sì, ma infatti tutta questa questione che lui ha fatto sull'identità, il cambiare genere e cambiare persona, cambiare, ora mi rappresento in una maniera e ora mi rappresento in un'altra, sono cose che si fa fatica adesso, nel 2018, certo, ad affrontarle, cioè in quegli anni lì, immaginatevi nel 1970, capito, cioè in quegli anni della polvere di cui si diceva prima, lui si sentiva fondamentalmente un pazzo, cioè, e appunto in uno schema, inquadrato in uno schema come quello della controcultura, dove ti dice te devi essere così, se non ti senti così sei strano, lui si sentiva pazzo, quindi fondamentalmente, essendo anche una persona intelligente, i suoi testi erano costellati di dubbi, di ma sarò matto io oppure è il mondo che è strano, cioè. E dopo arriva un po' più a una sicurezza, o almeno ci prova, ma tutta questa parte prima è una parte in cui lui ancora è molto incerto, probabilmente anche su quello che c'aveva in testa. Certo, sicuramente. E a questo punto arriviamo all'album che forse è quello in cui si avverte veramente l'esplosione della maturità artistica, forse, di David Bowie, che è Hunky Dory su RCA della fine del 1971. E prima di cominciare, farei sentire appunto un brano estratto da questo Hunky Dory, che per The voi, Beaulieu bla bla, Brothers. esatto, che Sì, Bloody beh. Mary ha scelto per voi. Sì, ma anche qui, appunto, The Beaulieu Brothers, fratelli, e che altro c'è da dire? Abbiamo già Esatto, detto prima. questo era ovviamente, Intuitelo. intuitelo, provate a indovinare a chi era dedicato questo pezzo. E quindi, se siete stati attenti, dopo vi Quiz. rinterroghiamo. E adesso The Beaulieu Brothers con David Bowie, sempre qui a Tonight Alive su Radio Wombat. And so the story goes, they wore the clothes, they said the things to make it seem improbable. A whale of a lie like the hope it was. And the good men tomorrow had their feet in the wallow, and their heads of brawn were nicer shorn, and how they bought their positions with saccharine and trust. And the world was asleep to our latent fuss. Sang the swell through the streets, let the crust of the sun leave you in our wings that bark, flashing teeth of brass, standing tall in the dark. Stolen, he was whacked so he could scream and still relax. Unbelievable. And we frightened the small children away. And our talk was old, and dust would flow through our veins. And lo, it was midnight back at the kitchen door, like the grim face on the cathedral floor. The solid book we wrote cannot be found today. And it was stalking time for the moon boys, the Beaulieu Brothers. With our backs on the arch, and if the devil may be here, but he can't sing about that. Now the dress is hung, the ticket pawned, the factor max that proved the fact is melted down, woven on the edging of my pillow. And my brother lays upon the rocks, he could be dead, he could be not, he could be you. He's chameleon, comedian, Corinthian and caricature. Shooting up high in the sky, Beaulieu Brothers. In the feeble in the bad, Beaulieu Brothers. In the blessed and cold, in the crunch hungry dark, was where we played our mark. Kings of oblivion, we were so tired. and bite me pie. I'm starving for me gravy. Leave my shoes and door unlocked, I might just slip away. Aye. Just for the day. Hey, please come away. Hey, just for the day. Hey, please come away. Hey, please come away. Just for the day. Please come away. Va bene, qui lo possiamo sfumare, dai, te lo concedo, va bene. No, tra l'altro, cosa che mi veniva in mente ascoltando questo brano, e anche quelli di prima, tranne Starman, vabbè, però il suo modo di cantare, cioè fateci caso che prima di Ziggy Stardust la sua voce ogni tanto è un pochino stridula ed è un po' con delle tonalità acute, ma nella maggior parte dei casi è bassa, è una voce sostanzialmente maschile. Certo. Dopo la sua voce si adegua al variare dell'identità che vuole rappresentare, quindi ogni tanto è molto femminile su delle frasi specifiche, su dei ruoli specifici, e invece diventa molto spessa e molto pesante, molto maschile e grave su altri ruoli. Il modo con cui lui intona e canta non è mai casuale, ma è insomma molto voluto e molto ragionato. Certo, io non me ne intendo, ma penso che a livello di canto non sia proprio il primo parvenu, ecco. Sì, è un'estensione piuttosto impressionante, ora senza niente di che, però insomma sì, una bella estensione e più che altro appunto la capacità, questo penso gli sia derivata davvero dall'Lindsay Camp, dalla mimica, dal teatro, perché insomma poi la butti nella musica, nel canto per forza, cioè la capacità di passare da un timbro a un altro con una fluidità impressionante, cosa che poi ti arriva, cioè che, certo, che appunto che poi la senti, determina, dici, l'espressività non suona mai falsa, non suona mai falsa, cioè costruita. Certo, lo fa in un modo molto naturale, ecco. Eh sì, sì, eppure è costruitissima in realtà, sì, poi sì, ovviamente. Sì, sì. Certo. Comunque la cosa che dicevamo prima sulla teatralità, eccetera, appunto, le cose che sono state scardinate da Ziggy Stardust e in generale dal Bowie di quel periodo e dal glam di quel periodo sono state appunto, una, il concetto di naturalità, dell'identità e dell'essere, cioè rappresentarsi come si è. E quindi si andava sul palco come si andava al mercato, cioè la pantalone zampaia infante che avevo la sera prima, cioè non, anzi, cioè mi devo presentare per come sono. E invece Bowie recupera tutta la teatralità del rock and roll, la fa sua, la esagera, così come il primo ancora l'ha fatto Bolan. Cioè, Bolan dice no, Bolan fa certe cose... La cosa prima che accennavamo al ruolo uomo-donna sulla chitarra, Bolan è il primo a farlo. Bolan vestito con boa di struzzo e truccato, eccetera, prendeva e si sedeva in terra e suonava la chitarra in terra, magari anche la chitarra elettrica in terra. Sì, sì. Che l'abitudine del momento era, cioè per l'abitudine del momento era destabilizzante, perché stai dando un messaggio contraddittorio. Quindi già solo in quello, anche lui giocava molto sulle voci, la voce di Bolan è a volte molto stridula, acuta, e altre volte molto grave e molto maschile, quindi è un messaggio che ti sto dando, che io posso essere uomo o donna a seconda di come mi gira. Questa cosa è stata una bomba, insomma. Certo, immagino. E appunto questo era uno dei Questo Hunky Dory è considerato uno dei tanti spartiacque della carriera di David Bowie. In questo album, come in Space Oddity e nel primo proprio omonimo David Bowie, ritorna alle tastiere un grande della musica progressive che mi ero dimenticato di nominare prima, che appunto Wakeman era il tastierista degli Yes, che ha dato manforte a David Bowie in questo inizio di carriera, e ritorna anche in questo Hunky Dory a dare manforte. E appunto questo album ha ancora tante reminiscenze del music hall e della ballata psichedelica. E forse uno dei brani più significativi, Queen Beach, era un omaggio a uno delle ispirazioni di quel periodo per David Bowie, ovvero Lou Reed. Queen Beach è il pezzo che David Bowie dedica all'amico, tra l'altro, Lou Reed. Ma sì, ma consideriamo anche lì che i Velvet Underground e Lou Reed in Inghilterra nel 1970 non sono nessuno. Cioè, che no, sembra una bestemmia, sì, no. Ma è così. Non erano poi così conosciuti, erano una cosa molto underground, dell'underground newyorkese. Sì. E in realtà un personaggio come Lou Reed, questo beh, lo sanno un po' tutti, cioè è stato salvato, preso per i capelli e salvato da Bowie. Da Bowie, sì. In questo, secondo me, vabbè, appunto sarò io di parte, però in questo secondo me Bowie era molto sincero. Cioè, io non credo alle teorie complottiste commercialoidi, cioè vabbè, ma ci avevano travisto il busco. Secondo me, per come erano le situazioni, per i tossici che erano, secondo me Bowie c'aveva da perdere più che da guadagnarci. Vabbè, perché era veramente una bella, cioè, artisti di livello assoluto, proprio presi uno per uno i Velvet Underground, perché uno pensa solo a Lou Reed, certo. Lou Reed e a Cale, ma anche tutto il resto, Sterling Morrison, Lamorian Tucker, erano tutti dei grandissimi nel... Sì, la stessa Nico. Nico stessa, certo. Ma sì, ma poi appunto in realtà però, infatti, nel salvare Lou Reed invischiato com'era poi negli anni successivi, appunto, secondo me era proprio un interesse sincero. Cioè, di fatto Bowie aveva attinto a piene mani da tutto ciò e gli voleva tributare il suo... Cioè, come, non lo so, io mi immagino, che ne so, la famosa storia di Chet Baker che viene ritrovato a Lucca che senza denti, sì, completamente in miseria, che lavora in una pompa di benzina, il fan lo trova lì. Boh. Dice, ma te, scusa, ma non è che dice ora ci fai i soldi, dice no, ma te sei il mio mito sceso in terra, ti aiuto, ma che devo fare? Cioè, certo. Secondo me era più questo tipo, io sono ottimistona, sono... Era già così. Stato arrestato a Marina di Pietrasanta. cioè, questo era il livello. Cioè, immaginiamoci, non so, i hip hop. Mi sa che ci è finito a lavorare dopo che era uscito di galera. Sì, sì, penso anch'io. E che sarà finito tutti i denti. Sì. No, però capito, te trovi uno come Chet Baker in quelle condizioni, secondo me veramente sei una persona fuori dal mondo se dici ora ci faccio i soldi. No, te dici boh, ma t'aiuto, certo. Io voglio credere la logica direbbe quello. Sì, ecco. Secondo me realisticamente è più così, insomma, cioè uno come Lou Reed, ma lo stesso Iggy per Bowie comunque era una grossa fonte di ispirazione e secondo me è stato un mutuo aiuto. Cioè, sicuramente. E quindi, cioè, boh. Come è stato anche un mutuo aiuto poi con l'altra sua ispirazione, Iggy Pop. Sì, tra l'altro. Sì, ma fra l'altro poi appunto Bowie, secondo me, i soldi se li faceva comunque, non c'era certo bisogno di fare. Però questa amicizia con Lou Reed... Sul finire della sua esperienza dei Velvet Underground, perché appunto poi se non mi ricordo male l'ultimo album ufficiale dei Velvet Underground, ora la trasmissione sui Velvet l'ho fatto un po' di tempo fa, ma mi sembra sia 71 massimo 72 White Light White Heat, e poi appunto Lou Reed ha intrapreso la sua notoria e carriera solista, anche lui con tutte le sue varie incarnazioni. Erano decisamente due anime affini per tanti versi, anche se non a livello musicale, secondo me, perché su quel lato lì ha preso di più Bowie da Lou Reed che non il contrario. Eh beh, sì, certo. Però è un mutuo aiuto e una serie di situazioni che fanno sì che si creino determinate connessioni fra artisti. Una scena, come la chiameremo ora. Esatto. E questa amicizia e sodalizio con Lou Reed ci introduce al rapporto magari che David Bowie aveva con il nome tutelare, direi, dei Velvet Underground e della scena underground newyorkese di fine anni 60 inizio anni 70, che è stato Andy Warhol. Sì, e lì c'è un ottimo gancio, infatti, e qui io devo anche qua sparare a zero, mi rendo conto, cercate riparo. No, mi rendo conto che magari risulta un pochino, però ecco, Andy Warhol fondamentalmente non esce bene da questa situazione, cioè non che Andy Warhol esca bene da niente, da chissà quante situazioni, cioè francamente è difficile salvarlo. Però ecco, in particolare, voi immaginate in questa situazione di, appunto, Velvet Underground. È stato un artista in tanti sensi, diciamo. Un grande artista. In questa situazione di fascinazione, dove Bowie, poi ribadiamo, Bowie era piuttosto giovane anche, insomma, molto affascinato da questa scena, questa controcultura che si agitava, artistica e tutto. E Bowie incontra il suo nome, appunto incontra Andy Warhol, che gli sembrava il massimo dei massimi, insieme anche a Burroughs, con cui però invece ebbe un rapporto molto migliore. Burroughs l'ha anche intervistato, se non mi sbaglio. Cioè Burroughs che intervista David Bowie. Sì, dopo c'è una frase che ho preso da proprio quell'intervista per descrivere il concerto. Parecchi anni dopo, sì. Se non mi sbaglio. Beh, no, non tanto dopo, perché parlava già della... sì, forse di qualche anno dopo, però comunque parlava di quel periodo, mm-hmm. e proprio del live di Ziggy. Comunque con Burroughs si capirono molto, insomma, non a caso, beh, Burroughs era un altro tipo di persona. Sì, e si capirono molto di più, si amarono molto di più. Andy Warhol, fondamentalmente il maledetto freddo Andy Warhol, calcolatore, cinico, arriva, gli si presenta. Non era certo un passionale, ecco. No, ecco, quello che abbiamo detto di prima sul taglio, no, con Andy Warhol il contrario. No, non funzionava proprio, proprio così. No. Andy Warhol ti fondamentalmente masticava e ti sputava. Sì, e come poi ti buttava su una tela. Sì, come sanno... ti masticava e poi ti sputava su una tela. Sì, come sanno Eddie Sedgwick o le famose star della Factory, insomma, fondamentalmente ti usava. Quindi Andy, però Bowie, che ne sa, arriva, finalmente riesce a ottenere questo incontro con Andy Warhol. Con l'entusiasmo del momento. Sì, lui è molto bello perché te lo descrive proprio con tutta l'ansia, oddio, incontro Andy Warhol. Vanno a prendere un caffè, non lo so, si incontra Andy Warhol, una tragedia, cioè la freddezza fatta a persona. E Bowie aveva scritto questo brano che ora ci stiamo per andare a sentire, che si chiama proprio Andy Warhol. Glielo fa sentire tutto con appunto il novellino che gli va a far sentire. Guarda, già mi immagino. Una roba, poverino. No, dai, allora ho scritto questo per... mi L'ho scusi. Scritto per te. Scusi, con la mia testa sotto i suoi piedi, io umilmente le farei sentire questo brano. Brano che, insomma, non è che va proprio schifo, un bel brano. Ecco, Andy Warhol, tipo... silenzio, e inizia a parlargli delle scarpe. Comunque hai delle bellissime scarpe gialle, mi piacciono molto. Ti piace questo pezzo? Belle scarpe. Belle scarpe. E Bowie ci rimane di merda e cerca di... No, ma dicevamo, no, perché la sua poetica, sa, maestro, perché comunque la filosofia inizia, e lui... No, ma parliamo della, della scarpe, del suo... Dove l'hai comprate? Quanto l'hai pagate? E insomma, è praticamente Bowie gli cascò un mito completamente. E c'è un bellissimo video, molto raro, però su YouTube se cercate lo trovate. E tra i meandri della BBC si trova. C'è un bellissimo video dove Bowie, ancora con i capelli lunghi, appunto il Bowie antico, con il capello lungo cotonato, non proprio cotonato, ma insomma era... Non era ancora cotonato. Non era Ziggy ancora, ancora per non niente era Ziggy. No, e quel Bowie lì fa praticamente non credo lo improvvisasse, però insomma mette in scena mimando, cioè con uno spettacolo di mimo, il suo incontro con Andy Warhol, e fondamentalmente il suo modo di rappresentare questo incontro era lui, sì, o che fa dei gestacci come suggerisce Dalai Lama, che sarebbe, se era fiorentino avrebbe fatto così, invece no, l'ha presa più sul serio. E allora cosa ha fatto? Ha praticamente messo in scena lui che si eviscerava da solo, cioè che si tirava fuori tutti gli intestini e gli organi interni e rimaneva lì svuotato completamente. Questo è il modo di Bowie di descrivere l'incontro, sì, con la delusione World profonda che ebbe da questo incontro. Si descrive abbastanza bene. Vero? Come si deve essere sentito. Vero? Devo dire. Secondo me rendeva. Aveva studiato bene da Liste. Gli aveva fatto un bel corso. Sì, bravo. Sì. Sentiamoci questo pezzo che ha schifato così tanto il buon Andy. E considerate se fa schifo anche a voi, oppure un po' meno, se vi sentite svuotati di tutte le viscere. Con Andy Warhol, sempre David Bowie, a Tonight Alive, Radio Wombat. It's Warhol, actually. Hull. It's Hull. As in Hulls. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hull. Andy Warhol, take one. Ah. Are you ready? Yeah. Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he passed to sleep, send him on a pleasant cruise. When he wake up on the sea, he's sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, pure gli applausi. Non erano di Andy Warhol. No, non erano neanche nostri, però. No, Andy Warhol era a guardare le scarpe. Si poteva anche, comunque, si poteva anche accontentare e fare almeno un minimo gesto d'apprezzamento. Ma veramente, insomma, ma che ti costa? Cioè, oddio. Poteva andarti parecchio peggio, insomma, no? Ma veramente? Vabbè. Ma digli, vabbè, bravo, sì, carina. Sì. Cioè, digli qualcosa. No. Le scarpe. Che gente antipatica, guarda. Sì. Vabbè. Beh, allora, no, ora stiamo per arrivare un po' nel vivo della questione, sì. Ziggy, perché diciamo qui eravamo, sì, le radici. Eravamo ai preamboli per farvi capire un attimo da dove arrivavamo, insomma, qual era stato il percorso precedente prima di arrivare all'album centrale dell'epopea di Ziggy Stardust, che appunto è The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. È il nome vero completo dell'album, anche se spesso è chiamato solamente Ziggy Stardust. Beh, sì. Gli amici lo chiamavano tutti Renzo, sì. Esatto. Sì, perché a un certo punto voi decide, va bene, io adesso creo un personaggio. Tra esatto. L'altro in maniera buffa, perché la cosa non era pensata, però creò proprio un personaggio, si inventò tutta questa storia di questo alieno, Ziggy Stardust, che è cascato sulla Terra, praticamente è un alieno quindi diverso da tutti gli altri, diverso dagli esseri umani, con una sessualità diversa, un aspetto diverso, insomma completamente diverso, un alieno. E quindi arriva sulla Terra e sconvolge le menti degli esseri umani, soprattutto dei giovani, dei ragazzi. In realtà lui non poteva pensare che questa cosa qua poi sarebbe in qualche modo successa veramente, ma è esattamente quello che poi è successo, volendo. Che poi ho trovato in un'intervista del 1990 su Q, appunto, David Bowie che racconta la nascita del nome Ziggy Stardust, come gli è venuto in mente il nome di questo suo nuovo personaggio che poi diventerà lui stesso, perché appunto anche se era una prova d'attore, però era parecchio Stanislavski. Infatti, cioè, si parla di personaggi, ma cioè, sì, ecco. Parlavamo anche di schizofrenia, insomma, non esatto. A caso. E appunto racconta che questo nome, il nome Ziggy, gli fu ispirato da una sartoria di Londra chiamata Ziggy's, davanti alla quale una volta era passato in treno, e diceva che aveva un'aria quasi da Iggy, ma era una sartoria. E allora pensai, beh, l'intera faccenda riguarderà i vestiti. Così, quasi per scherzo, decisi di chiamarlo Ziggy. E invece l'origine di Stardust, del cognome del personaggio, richiama invece l'eccentrico cantante statunitense Normal Carl Odom, più noto con il nome di Legendary Stardust Cowboy, che è considerato, tra l'altro, uno dei pionieri del genere psychobilly. Sì, che poi definire eccentrico è un eufemismo. È un eufemismo, una specie di Bob Log, mi immagino. Sì, ma più dell'America più profonda e scura, quindi più capirai. Addirittura. Sì. No, personaggino. Però bello, eh? Cioè, è andato a ribeccare non, perché... Mi manca questo pezzo. Ha fatto tre pezzi, penso, in vita sì, sua. E tra l'altro il pezzo, l'unico successo di Legendary Stardust Cowboy, vedo che è la canzone Paralyzed del 1968. Sì, a un certo punto penso che provò anche a fargli causa, gli hanno riso in faccia per il nome. Ah. Gli hanno detto, ma certo non mi avete dato neanche 5.000 lire, una cosa del genere, gli hanno riso in faccia, sì, ma vaffanculo. Va bene, dai, sì. Ti si danno dopo, vai. Due caramelle. Va un caffè. Povero. Sì, no, ma... Ritornando a Ziggy, prego. Sì, ritornando a Ziggy, tra l'altro appunto questa storia dell'alieno che cade sulla Terra, eccetera, è buffo perché poi Bowie l'ha interpretata in un film, che è L'uomo che cade sulla Terra, film parecchio successivo, però dove in realtà cioè, sembra fatto tutto apposta, cioè se te lo guardi ora dici vabbè ma quello gliel'hanno cucito addosso, sì, sì, il ruolo, e in realtà no, cioè la sceneggiatura del film era andata in parallelo, non aveva assolutamente nessuna ispirazione da tutta la faccenda. E a un certo punto il regista disse doveva cercare un attore protagonista e non lo trovava, non gli non trovava nessuno. Poi a un certo punto in televisione vide questo cantante, questa rockstar androgina che lo conosceva poco però, e disse ma certo però ci starebbe bene. Guarda, lui potrebbe andare. Cioè, è impressionante perché se guardate L'uomo che cade sulla terra, che tra l'altro è un bellissimo film che vi consiglio, molto bello, cioè, sembra che parli di Ziggy Stardust obiettivamente, eppure no, non c'entrava niente. No, no, no. Però vabbè, poi chiaramente Bowie la fece alla perfezione perché parlava di lui, e quindi è chiaro che la fai bene. Un film, certo, che sembra fatto su di te, è chiaro che poi ti viene bene. Quasi cucita addosso involontariamente. Ecco. Sì, e creò insomma questo personaggio, mise insieme questa band, gli Spiders from Mars, e dove c'erano dei musicisti, sì, dei signori musicisti. A partire da Ronson alla chitarra, che Ronson meraviglioso, che sarà proprio una delle cifre stilistiche dell'intero proprio movimento glam, direi. Sì. Sì, tra l'altro anche poi, anche quando gli Spiders from Mars sono stati messi da parte, in ogni caso ha continuato a produrre con fiori di musicisti. Sì, sia sul glam e anche dopo sull'elettronica e sul punk, tra l'altro. Cioè Mick Ronson è... insomma ha messo le zampe in tantissime cose che sono venute dopo. È buffo perché Mick Ronson è uno di quei personaggi che rimangono sempre un po' sullo sfondo, in realtà poi hanno fatto tantissime cose, hanno influenzato, sì, altrettanto la musica, come magari artisti molto più celebrati. Assolutamente. Sì, sì, ci sono sempre questi artisti che, nonostante abbiano avuto un peso rilevantissimo a livello artistico, sono sempre rimasti un po' nell'ombra, o per scelta, o per vicissitudini, o per personalità anche, sì, a, sì, volte. Sì. E comunque il contributo sì, l'hanno dato, e come. Notevole anche. E quindi niente, fecero questo mesero su questo gruppo, Ziggy Stardust, fondamentalmente, oltre a questa storia che poi viene narrata in tutto il disco un po'. Il disco The Rise and Fall è proprio la storia raccontata della vita, sì, appunto, dell'ascesa e della discesa, della caduta di Ziggy. E sì, molto in forma narrativa. Beh, Bowie era un amante della fantascienza, quindi insomma questo disco è proprio una storia, cioè ti racconto questa storia, è una storia di fantascienza con tutte le metafore che stanno dietro tutte le storie di fantascienza. Certo. E lui ha messo in piedi questo personaggio, che è un personaggio fondamentalmente androgino, come si diceva, e in questo Bowie lo aiutava, proprio la sua sembianza fisica, perché già era androgino di suo. Poi questa cosa che sembra veramente tutto costruito, ma sto fatto che aveva due pupille diverse... che in realtà poi non sono veramente di colore diverso. La storia era che lui aveva una paresi. Perché si prese un cazzotto dal suo amico per una ragazza. Certo. E questo suo amico aveva un anello ad un dito, e quell'anello finì proprio nell'occhio di Bowie per questo cazzotto, e quindi gli rimase l'occhio in quella maniera. Sì, che praticamente paralizzato. Aveva anche dei difetti comunque alla vista causati da questa cosa. Questo non lo mi so, sembra ma d'aver ci letto. Sta, ci sta. E sì, e infatti sembra che abbia due occhi di colore diverso, in realtà è che c'ha una pupilla dilatata, ferma così, mentre sì, l'altra invece reagisce alla luce. E quindi però a tutto ciò lo rende un alieno, poi di certo, fatto lo guardi e dici no vabbè, c'è il video di Life from Mars, dici no vabbè, questo da dove è uscito? Cioè, ti spaventi. Dove ti senti? Sì, cioè, è appunto tutte le cose che abbiamo detto prima, sommatele a un'evidente sembianza fisica di alieno, cioè, produssero uno shock in chi lo guardava. Certo. E appunto ribadiamo che prima di colorato, sgargiante e brillantinoso non c'era niente, c'era l'austerità del rigore anglosassone, dove bisogna la compostezza. E l'altra cosa molto interessante, che poi insomma vedremo quando parleremo per bene, entreremo nel vivo del live, era proprio come andava in scena. Cioè questa rappresentazione di Ziggy era qualcosa appunto di visivo e tutta la mimica. E si rifaceva infatti tantissimo al teatro. Sì, era... sì, ma anche lì la cosa che ha dato... se vogliamo analizzarla proprio nel profondo, tutta la questione poi di genere, che è stata la grande rivoluzione che ha portato in questo Bowie, anche se anche il resto del glam, però diciamo che lui è quello che ci ha riflettuto un po' di più, che probabilmente sapeva cosa stava facendo. Un po' più degli altri. E nel profondo poi si trattava di... cioè lui a un certo punto ha... definito il genere come un qualcosa di performativo e non come di espressivo, cioè il mio genere è un qualcosa che io faccio vedere all'esterno, quindi è un qualcosa che può cambiare. Io mi rappresento in una maniera oggi, ma questo vuol dire che domani mi posso rappresentare in un'altra maniera. Io non dico come sono, perché non so rispondere alla domanda a cosa sono, tant'è che la domanda che si poneva a chi guardava Ziggy in quel momento non era ma è un uomo o una donna, era proprio il boh, che cos'è? Cioè, sì, sì. Era un qualcosa di diverso, di ancora più profondo, e dava per la prima volta, introduceva questo dubbio nei giovani adolescenti che ci potessero essere... Cioè non era il sostituire la cultura macista, volendo, appunto la Jimi Hendrix con il maschio che suona la chitarra e lo fa in una maniera... dei tanti, cioè appunto in quel periodo, inizio anni 70, andava tantissimo l'hard rock. Capito. È uno degli apici del macismo, sicuramente. E non era sostituirlo però con l'immaginario gay. Perché l'alternativa sarebbe potuta essere quella, no? Allora io ti faccio vedere, io che sono dichiaratamente gay, palesemente gay, e quindi ti do fondamentalmente due binari, su tu ti puoi sentire gay oppure ti puoi sentire etero, e quindi ti ho dato... E questo no, perché la figata del glam poi alla fine è che non era sto binario, era... un mélange, era tutto un buglione dove io non so definire cosa sono. Una cosa indefinita, anche perché poi questa estetica che poi si rifarà all'omosessualità, penso che arriverà solo con la disco del finire degli anni 70. Esatto. Cioè lì da cosa sei, cosa sono, non lo so, del glam di David Bowie sfocerà nella parte omosessuale, sicuramente con la disco. Eh sì, perché lì poi c'è il passo successivo dell'orgoglio, del pride, certo, del dire io me lo rivendico. Certo. E invece qui è chiaro un'identificazione in quel senso lì. Sì. Come James Brown diceva all'inizio degli anni 60, say it loud, I'm black and I'm proud. E lì c'era la rivendicazione dell'essere nero, 10 anni dopo, anzi anche di più, c'è invece la rivendicazione dell'omosessualità con la disco, il pride della... Sì, sì, e poi appunto tutto il glam e Bowie in particolare, cioè, insomma, non hanno mai nascosto, cioè Bowie penso che sia stato, non voglio, però credo, se non sbaglio, che sia stata la prima rockstar a fare outing, a dire dichiaratamente in televisione io sono bisessuale, questa cosa qui cioè, ha creato il panico un'altra volta, poveracci. Credo che lo dichiarasse. Se non mi sbaglio, Lo dichiarò a Melody Maker in un'intervista del 72. Sì, in una conferenza stampa, sì, mi ricordo anche io sta cosa. Fece scalpore. Cioè, una roba mai sentita. Sì, perché era il primo personaggio pubblico a dichiarare una cosa del genere. E detta col sorriso, cioè certo, con una sfrontatezza che nessuno... Infatti molti si sono anche posti il dubbio che non fosse tutto preparato apposta per questioni commerciali. Ma era proprio su questo dubbio che in realtà si gioca tutta la questione. Perché io non mi rifaccio alla realtà, alla naturalità. Io non è che mi rivendico il fatto di essere bisessuale, gay o che, perché io sono nato così ed è bene così. No, era una cosa ancora più sottile. Era un... faccio che cazzo mi pare. Cioè, se adesso io mi voglio rappresentare come uomo, mi rappresento come uomo. Se voglio rappresentarmi come donna, mi rappresento come donna. Se voglio rappresentarmi come uomo che si veste da donna, lo faccio. Allo stesso modo del se voglio cantare con una voce da uomo, posso cantare con una voce da uomo e un attimo dopo fare invece la parte della donna. Cioè, era una cosa ancora più sottile e ancora più rivoluzionaria, se vogliamo. Certo, sicuramente. E perfetto per questo punto della carriera di David Bowie. E sull'argomento, il prossimo brano è John, I'm Only Dancing. Sempre ovviamente su Tonight Alive a Radio Wombat, e in questo caso Ziggy Stardust. Always eat some meat to control his all those small bits of life is putting us on. Oh Lordy, oh Lordy, you know I feel so bad. From the stairs, you're everyone that ever cared. E questa era Lady Stardust, sempre presa da Rise and Falling of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Lady Stardust dedicata a Mark Bolan, proprio a tutta per lui, canzone tutta per lui, dove amico e ispirazione. Eh sì, perché lui, appunto di fatto ci sono tutte le ispirazioni proprio esplicite, cioè non... Poi ha anche dichiarato proprio che le tre più grandi ispirazioni che hanno determinato la nascita del personaggio Ziggy Stardust sono state appunto Mark Bolan, Lou Reed e Iggy Pop, che al tempo era assolutamente sconosciuto in Inghilterra. E però era una bomba al tempo. Però era una bomba e appunto Bowie ci dice che era molto... cioè ispirato da Iggy Pop, perché Iggy Pop... cioè, rappresentava veramente la feccia di Detroit con i suoi atteggiamenti, con cioè, proprio per essere lui era molto invidioso di questa cosa, sì. Perché lui alla fine era uno studente d'arte del sud di Londra. E era un dandy, come si diceva, esatto, prima. Esatto, era un dandy, e invece Iggy Pop rappresentava il vero selvaggio, ma non il selvaggio finto, costruito. Quello vero, quello proprio proveniente dai bassi fondi e che sputava proprio tutta la sua rabbia nei suoi testi e nelle sue canzoni, e dichiara a Bowie che lo invia, appunto proprio per questo motivo qua, non potendo essere nato così, si era appropriato di queste caratteristiche di Iggy Pop e l'aveva buttate dentro il personaggio di Ziggy Stardust. Sì, così come probabilmente Lou Reed per certi altri versi costituiva la follia, cioè Lou Reed che subisce l'elettroshock da piccolo, perché tacciato di omosessualità, cioè insomma c'erano tutte varie cose che insomma ci butta tutto c'erano dentro. C'erano tantissime affinità, forse... Tra sì, appunto, come si era già detto prima, tra Lou Reed e Mark Bolan è il terzo, indubbiamente, e fra l'altro c'è un rarissimo duetto che fanno loro due, mi sembra, non vorrei sbagliare, mi sembra la trasmissione di Cilla Black, comunque insomma in televisione si vede loro due che duettano per un microsecondo, perché poi in realtà poi è bellissimo, perché Bolan si lancia in questo primo piano e casca inciampando nel palco e la cosa finisce disastrosamente, si interrompe la ripresa e quindi vabbè. Stavamo scherzando. Sì, però in realtà penso che fossero anche molto amici e la scomparsa poi di Bolan per Bowie è stato un trauma. Sì, è stata una bella botta, perché erano proprio amici. Sì, e poi tra l'altro Bolan appunto è vero che è stato pioniere di tante cose, e anche lui... di fatto è poi quello che ha iniziato a mettere i mattoncini che poi avrebbero portato al punk. Lui, i New York Dolls, gli stessi Stooges, ma insomma erano tutti piccoli passetti che poi hanno portato al punk. Non ci sarebbero punk senza i T-Rex non sarebbe esistito. Ma tra l'altro lo stesso famoso live di cui stiamo parlando, di Ziggy, ma è considerato, ho letto che in diversi lo considerano già proto-punk anche Ziggy Stardust, gli stessi Joy Division ti dicono, quando siamo andati a vedere Ziggy siamo impazziti, cioè... No, ma è probabilmente proto-punk non nel senso musicale del termine, ma nel senso di atteggiamento, nel senso culturale, nel senso proprio di rottura con la cultura precedente, sì, assolutamente punk in quel senso lì, sicuramente. Per quello sì. Si possono si può mettere Ziggy Stardust dentro il grande calderone del protopunk. Ma sì, ma c'è anche la provocazione continua. Cioè, io non mi ricordo se proprio nel pezzo che ci siamo sentiti prima, o se dentro Hunger to Yourself, comunque in uno dei due che sono un po' considerate i pezzi iconici sulla. Perché parlano espressamente di rapporti omosessuali, a un certo punto ci sono frasi del tipo siamo come due tigri dentro la vasellina, cioè nel senso, c'è una roba che boh, nel 72 cioè e quindi poi insomma il punk ci credo che hanno sentito questa cosa, hanno detto no, vabbè, anche noi sì, poi sti capelli che c'aveva Ziggy certo. Poi l'abbiamo rivisti e... Abbiamo rivisti fuori Sex Pistols qualche annetto dopo, diciamo, sì. Sì, ma comunque si dice che all'Odeon di Londra, all'Hammersmith Theater, c'erano tutti. Cioè, sì, c'erano i vari Sid Vicious, Strummer, pare che ho visto delle foto del party, dell'after party, del concerto, e c'erano ad esempio... allo stesso tavolo seduti accanto Bowie, Lou Reed e Mick Jagger. Sì, sì, però anche tra il pubblico c'era gente che... Sì, no, ma giusto per dirmi una foto che mi ricordo dell'after party, ecco, ma giusto per dirne un paio. Li beccavi tutti, sì. Era the place to be in quel periodo. The gig to be. Sì. Quindi sì, allora di Ziggy Stardust ci siamo arrivati, l'abbiamo anche abbastanza sviscerato, direi. Più o meno entrando nel vivo del concerto, il concerto, poi in realtà appunto noi ci andremo a sentire un altro concerto, però diciamo ci furono diversi tour. Era sempre dello stesso tour comunque. Esatto, uno dei tour più importanti, l'ultimo tour che vede questo personaggio in scena, ovvero Ziggy, è l'Aladdin Sane Tour, perché nel frattempo appunto esce anche Aladdin Sane. Che fa sempre parte dell'epopea di Ziggy Stardust, però in questo caso come sottotitolo a Aladdin Sane gli potremmo mettere Ziggy Stardust Goes to America, sì, perché praticamente anche nelle dichiarazioni di Bowie questo album è stato tutto scritto durante il tour americano di Ziggy Stardust, e infatti in Aladdin Sane ci sono tantissime canzoni dedicate alle varie tappe americane del tour di Ziggy Stardust. Sì, tra l'altro Detroit, New York, New Orleans, anche se non mi sbaglio, comunque le varie tappe toccate dal tour americano di Ziggy Stardust, è un po' anche proprio nell'intenzione di scrittura il diario di viaggio di Ziggy Stardust attraverso l'America. Sì, tra l'altro viaggio che non va benissimo, nel senso che se in Europa, cioè Ziggy era proprio un prodotto dell'Europa, sì, e sì. Quindi era un qualcosa che, cioè, stavi mettendo le mani nel torbido di una cultura che conoscevi, perché era la tua. Era la tua. Portarla in America non ha avuto lo stesso effetto, gli americani gli Stati Uniti non avevano altrettanto apprezzato e capito. Probabilmente non erano manco pronti per una cosa come il glam, o comunque non era il loro. Non era il loro, e forse negli Stati del Sud c'era anche il caso di prendere un paio di fucilate, sì. Direttamente sul palco, visto la notoria apertura mentale. Sì, no, totalmente. E i modi di fare. E infatti anche lì, dei redneck. Ma infatti il periodo successivo poi a questo tour, insomma la parentesi Ziggy, poi vede un crollo psicologico anche di Bowie, dove boom, si devasta di cocaina fondamentalmente, e perché uno perché si deve riprendere da questo passaggio, che insomma è un passaggio da una personalità a un'altra, di fatto, certo. Quindi stava nei pazzi, e poi perché comunque lui ha detto va bene, ora faccio il salto, questo mio personaggio, questo mio modo di parlare al mondo può parlare davvero al mondo, e si rende conto che no, non può parlare al mondo, può parlare a una generazione, può parlare a una categoria di persone, a tante persone, ma non a tutti, e quindi probabilmente anche questo l'ha devastato, insomma. Ma infatti deciderà di far morire Ziggy nella famosa ultima data del tour. Sì, e ultima data, ci arriveremo. Ma anche probabilmente forse come liberazione personale. Sì, sì, sì, sì, sì, no, ora poi magari ci arriveremo, sì, proprio no, verso ora, la fine, certo. Ma sì, doveva in qualche modo liberarsi da questa cosa, perché probabilmente era un mezzo espressivo che non andava più bene, doveva usarne un altro. Però insomma, per uscirne un po' ci va. E quindi anche sì. Perché come sempre c'entrava abbastanza dentro ai suoi personaggi. Eh beh, sì, sì, sì, sì, giusto. Ma era una parte di sé, insomma. Sicuramente. E ora ci ascoltiamo invece un altro pezzo, Lady Grinning Soul, che io ho scoperto di recente, nonostante ho dichiarato di essere una invasata pazza maniaca di Bowie, ma in realtà Lady Grinning Soul me l'ero persa. Contenuto anche questo in Aladdin Sane, se non sbaglio. Questo è in Aladdin Sane, sì. Ma è bellissimo. C'ha una complessità di composizione che veramente ti lascia abbastanza sbalordita, e contiene dei salti armonici che dici, boh, ma... Cioè, per un appunto rockstar pop è qualcosa, certo, di impensabile proprio. Però non vi dico altro, secondo me ascoltatevelo. Ascoltiamocelo questa Lady Grinning Soul da Aladdin Sane, Ziggy Stardust, Radio Wombat, Tonight Alive. She won't. Ho capito. Notevole veramente. Cioè toni maggiori e minori così Notevole veramente. Anche con appunto poi avevo letto una dichiarazione su Aladdin Sane di Bowie, che appunto elogiava l'apporto di Mike Gerson, che è il pianista jazz ospite per le registrazioni di questo album, che diceva appunto che le sue sfumature, i suoi tocchi di piano caratterizzano, danno una coloritura, una sfumatura ad Aladdin Sane, che se non fosse intervenuto appunto un jazzista d'avanguardia come Gerson, sicuramente l'album sarebbe risultato molto più un classico pop da classifica. Sì, si sarebbero perse. Sì, molto sì. Più un classico pop da classifica. Infatti, oltre a essere un diario di viaggio dell'America, è anche un'immersione di Bowie nelle sonorità d'oltreoceano. Appunto sì. La sua prima grande esperienza oltreoceano, prima era molto più legato agli umori e alle sonorità europee, invece questo grande tour in America gli fa rendere conto e arricchire di tutte queste sonorità tipiche americane, come appunto il classico rock and roll degli anni 50, oppure addirittura il doo-wop dei, ma sì, perché degli poi stili del classico stile vocale. Eh sì, ma poi non si accontenta dell'immagine patinata dell'America, degli Stati Uniti, così da cartolina un po' vogliamo, o perlomeno che loro stessi, che gli stessi americani volevano dare di sé, cioè tant'è che è un po' un frullato di vari stili, come l'America lo è, cioè, lo è, certo. Il brano che abbiamo appena sentito era latino, era sì. Latin America, spagnolo, era quasi flamenco per certi versi, sì. Perché gli Stati Uniti questo sono un melting pot di tantissime culture. E anche questo non è scontato, non lo era agli inizi degli anni 70, non lo è manco adesso, figuriamoci ecco. Allora. Stavo cioè, anche qui, le parole di bocca. Capito? Anche qua, come sull'approccio sui generi, alla stessa maniera, cioè comunque si va a mettere le mani su qualcosa che non si doveva dire, non si voleva nascondere. Mettere da parte, nascondere, non farlo affiorare, ecco. Sì. E quindi allora, poi in realtà sì, l'Aladdin Sane Tour appunto andò anche in Giappone in realtà, oltre che negli Stati Uniti. I giapponesi penso che gli sia piaciuto abbastanza, tanto quelli, cioè, sì. Ma chi è che non piace il Giappone? No. Cioè, ma già sono contenti che li va a trovare, quindi insomma. No, ma poi a quanto so i fan giapponesi sono incredibili. Me l'hanno ecco. Detto anche a me, ne parlavo anche di recente, dice che comunque sì, sono degli entusiastoni. Sono molto degli entusiasti, al di là della sì. Loro pragmaticità. Sì. Sono persone che, soprattutto nella musica, ci sono... Eh sì, me lo dicevano. Ci sono tantissimi album che prima di poter trovare tutto con un click, ci sono tantissime cose che esistevano solo in edizioni giapponesi. Ah, è vero. E che non venivano neanche portate da una parte o dall'altra dell'oceano, ma rimanevano solo lì, e anche ora ce l'hanno, ma prima ancora di più avevano proprio questo status di culto, ecco, perché erano edizioni che esistevano solo per il territorio ed il mercato giapponese, giusto per far capire appunto quanto i giapponesi ci tengono alla musica, come infatti poi si può vedere in tantissimi ambiti di avanguardia. I giapponesi sono sempre in prima linea, ecco, anche nella sperimentazione. Una puntata di Tonight Alive su un live dei Matt Banana, per esempio, una cosa brutale. Devo dire qualcosa, sì. Chissà, magari di un Merzbow, giorno. Di Merzbow, roba... estrema. Roba estrema. E quindi tornando al nostro Aladdin Sane, il tour insomma varca l'oceano e va in qua e in là, e a un certo punto Bowie inizia a non poterne più, anche perché da persona, insomma, l'abbiamo descritto in lungo e largo, sensibilone, com'era, insomma, questo show business inizia un pochino a non poterne più. Ah, comincia un attimo a pesargli. Sì, perché da un lato si rende conto che tutte le sue bellissime intenzioni e le sue bellissime cose, però, come sempre succede, vengono completamente irregimentate, in scatola, completamente no, però insomma vengono messe a rischio molto da un sistema discografico, il commercio. Comunque le case discografiche vogliono vedere i risultati, ecco. E quindi inizia a che per, a che non per poterne Ziggy più. Stardust e Aladdin Sane comunque sono stati veramente rilevanti anche i risultati commerciali, perché sono album da plurimilionari. Leggevo Ziggy Stardust, cioè roba tipo 8 milioni di copie vendute. È per quello ti dicevo che gli frega a lui di Lurid. Appunto, cioè, Aladdin Sane un po' meno, ma si sarà sempre intorno ai 4-5 milioni di copie vendute comunque. Sì, quindi insomma inizia un pochino a cadergli addosso anche lì. Anche il peso magari dell'aspettativa di tutto l'entourage e di tutto l'ambiente esterno. Ma poi se consideri che arrivavamo dalla fine di un sogno, come era il sogno della controcultura americana, appunto lo dicevamo inizio trasmissione, si passava a All the Young Dudes, a un altro sogno che era quello del glam in qualche maniera, e qui si infrange un altro sogno, tutto un infrangere di sogni, cioè, e lui che sperava anche lì, poi non era ingenuo, la stiamo semplificando, però insomma comunque sia i testi e come le faceva le cose denotano che comunque ci credeva, insomma non è, certo, che le buttava lì, non era un prodotto commerciale, gli si può dire di tutto tranne che fosse un prodotto commerciale. E quindi poi a un certo punto, quando poi si scontra con la quotidianità del commercio e del business, ci rimane male oggettivamente, e decide di uccidere Ziggy Stardust. E lo uccide proprio, nel senso che in realtà quando lui ha dato l'addio a Ziggy Stardust, perché la cosa è andata tour, il famoso tour appunto di Aladdin Sane, ultima puntata doveva sì essere l'ultima data del tour, quindi già si sapeva che era l'ultima data del tour alla Hammersmith di Londra, però non doveva essere, cioè, l'ultima puntata di Ziggy Stardust, cioè da lì poi boh, chissà. E lui diede l'annuncio, lo diede prima di Rock and Roll Suicide, un pezzo meraviglioso che parla esattamente di questo. Beh, non a caso, insomma, Rock and Roll Suicide, certo, già soltanto il titolo fa capire, e fa capire appunto l'infrangersi di sogni esattamente in questa maniera brutale. E poco prima di, cioè per annunciare il Rock and Roll Suicide, lui dice: questo è l'ultimo pezzo del, non è solo l'ultimo pezzo di questo concerto, ma anche l'ultimo pezzo in generale che gli Spiders from Mars e Ziggy Stardust faranno per sempre. Il resto della band non lo sapeva sta cosa. Cioè in realtà lui l'ha buttata lì, ma il resto della band ci è rimasta in mezzo, ha detto: ah sì? Ah, e quindi noi siamo licenziati, sì, perché poi erano soldoni, funziona anche. Funziona che comunque, ah bene, e quindi ci sono anche un po' rimasti in mezzo. Ma i TFR? Cioè, scusa, ma magari ce lo potevi dire prima. E però lui disse no, io sono mamma. Si fa festa. E quindi funziona così. Tra l'altro, intervista che prima citavamo con William Burroughs, cioè che William Burroughs fa a Ziggy, ve la volevo leggere perché è interessante, perché racconta secondo lui come andò questa cosa. Fondamentalmente, per entrare nella storia di Ziggy Stardust, che comunque era complessa, c'aveva tutto un suo mondo, c'era una storia di fantascienza vera e propria con dei personaggi minori e tutto quanto, Bowie dice: c'erano degli uomini, delle stelle chiamati infiniti, di cui Ziggy Stardust era il profeta. Giunti sulla Terra, gli infiniti si impossessano di Ziggy per diventare reali, perché nel loro stato originale sono antimateria e non possono esistere nel nostro mondo. Lo fanno a pezzi sul palco durante la canzone Rock and Roll Suicide. Appena Ziggy muore sul palco, gli infiniti si appropriano dei suoi elementi e diventano visibili. Cioè, in qualche modo, se vogliamo, anche un riferimento proprio a voler essere super, cioè gliela tiro un po' per i capelli, un riferimento quasi all'alchimia, dove per si deve prima distruggere per poi creare qualcosa. Quindi abbastanza esplicito in Bowie il devo distruggere questo Ziggy Stardust, lo devo uccidere perché poi possa nascere qualcos'altro. Tra l'altro Bowie è seguace anche dell'Ester Crowley, sì, che insomma lui ci sta abbastanza. Sì, ma poi veramente, cioè, comunque i testi li scriveva con i Sing, come faceva peraltro Dick, cioè un altro invasato pazzo come lui. Cioè insomma ce n'aveva diversi di input bislacchi. Sì. E quindi niente, la canzone Rock and Roll Suicide non ve la facciamo ascoltare perché la sentirete poi. Ci ascoltiamo invece, cos'era la prossima? Life from Mars, vero? La prossima è Life from Mars. Life from Mars, anche qui è un po' un salto all'indietro, perché... però ci stava, perché se ve la facevamo sentire all'inizio è una delle più conosciute. Giustamente, perché comunque risale a Hunky Dory. Però ci sta perfetto appunto per Ziggy Stardust. Sì, è anche qui il sogno, cioè la cosa che ha fatto sognare intere generazioni, cioè l'adolescente che si sente dire da un alieno che lo guarda negli occhi e che gli dice c'è, dai che magari su Marte c'è un mondo troppo più figo dove tu ti sentirai a tuo agio, e se qui ti senti un alieno è perché non sei nel mondo giusto. Insomma, bello. Cioè deve essere stato consolatorio, sì, sì, per un bel po' di ragazzini. Il grande tema dell'escapismo è contraddistinto tante tanti leader della controcultura o di certe culture laterali, diciamo, e cercare il luogo giusto altrove. E quindi andiamoci a sentire Life on Mars di David Bowie. Sì. Ancora era David Bowie su Tonight Alive e Radio Wombat. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on the same rules hiding in the dance hall. But the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow, and now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again. Ereditata nel 2016 dopo la morte di Bowie, è molto bella secondo me come versione. Molto molto bella, sì, è vero. E con questo tristone arriviamo a un altro brano che è l'ultimo un po' che mettiamo di quest'era, perché poi dopo vi metteremo l'ultimo brano di questa scaletta, che però sarà per farvi sentire proprio la differenza. Cioè la differenza tra un personaggio e l'altro, tra, sì, un'incarnazione e l'altra. A cosa ci si arriva? Dell'artista Bowie, sì. Sì, ed è Five Years, perché Five Years è un brano che io, se parlo di Bowie, devo mettercelo, cioè non c'ha è più forte di me. Te lo concediamo, non ti preoccupare. Sì, perché Five Years è un brano bellissimo che parla di apocalisse, di fine del mondo. Anche lì si ritorna alla fantascienza. Bowie era un accanito sulla fantascienza e quindi ce la rimetteva appena poteva. E fondamentalmente lui, anche qui ci sono un po' di aneddoti interessanti. Pare che il padre di Bowie, se non sbaglio, dei ricordi un po' vaghi, ma mi sembra che il padre di Bowie o lo stesso Bowie avesse ricevuto una sorta di indizio di così da qualcuno che gli aveva detto, in una forma un po' tipo un oracolo, gli aveva detto: tra 5 anni finirà tutto. E effettivamente dopo 5 anni dopo il padre era morto, quindi da lì Bowie rimane sconvolto, dice: eccoci. Vai, e ci quindi, siamo. Questi 5 anni diventano una sorta di scadenza e quindi una sorta di anticipazione del no future, di cui poi parleranno i punk, diciamo, beh, non proprio 10, ma insomma qualche anno, 5 anni dopo. Perché i punk si rendevano perfettamente conto che il futuro in qualche maniera era finito, era morto, e che il sogno americano, ciao, addio signore, se mai resistito, ora certo che no, e vivevano in un mondo di macerie, o perlomeno con una spada di Damocle. Bowie questa cosa la butta lì già in quegli anni, lo fa attraverso questo pezzo che appunto è un annuncio dato alla televisione di un annunciatore che, in maniera anche un po' preso dal panico, dice: va bene, sta finendo tutto. Abbiamo saputo, gli scienziati ci hanno detto che tra 5 anni il mondo finisce, arrivederci e grazie. Da lì si scatena il panico, e quello che fa Bowie in questo brano è descrivere scene di panico delle persone nella loro umanità, poi fondamentalmente nella isteria, nella violenza, nello sconforto, nella disperazione e tutto. E quindi bellissimissimo secondo me questo Five Years. E anche qui, come secondo me le cose migliori di Bowie, chitarrina semplice, lui che piglia e canta, e non c'è tanto da dire. E via. Allora questa è Five Years con Ziggy Stardust. mother sighing. You had just come over. We had 5 years left crying. This guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people. Poi chitarrina fino a un certo punto, perché c'erano anche gli archi. Okay, pure. Sì, sì, sì. vabbè, però. Bella, bella, molto bella. Sì, e diciamo che con questo chiudiamo un po' l'era. L'era di Ziggy. Sì. Si chiude l'epopea di Ziggy Stardust sul pianeta Terra. Basta, sì. Sì, proseguo da un'altra parte e arrivano gli infiniti al suo posto. E poi da lì cosa succede? Succede Diamond Dogs, per esempio. E succedono tante altre cose, insomma. C'è Pin Up prima, se non mi sbaglio. Forse c'è Pin Up. C'è Pin Up nel 73. C'è Pin Up. E poi Diamond Dogs. È vero, c'è Pin Up, che però era ancora sì, era... più di là che di qua. Sì, sì, sì. Infatti è bellissimo anche nella Pin Up. Nella fase della bolla. Mm. E poi c'è Diamond Dogs, che comunque anche quello, insomma, fa parte... Cioè, diciamo che sta era si conclude, ma fino a un certo punto, perché poi in realtà, appunto, l'abbiamo detto prima, uscire da un personaggio ci va un po', e comunque... non si era esaurito ancora del tutto, evidentemente. Mm. Ma sicuramente finisce Ziggy. Il personaggio viene ucciso e non risuscita, ecco. E giustamente. E però dopo poi si crea un qualcos'altro. Perché se ci sono ancora degli echi, perché comunque appunto comunque erano le sue personalità, quelle venivano dall'interno, certo. E quindi non è che te ne disfai veramente, però erano degli echi e dopo c'è qualcos'altro, e infatti ci ascoltiamo Candidate giusto come esempio per far sentire subito che cambia qualcosa, ma proprio tanto, dalla musica, dall'orchestrazione, dalla composizione, dalle armonie, ma anche e soprattutto la sua voce. Sì, sì, è proprio un cambiamento che poi porterà all'incarnazione del nuovo personaggio di Bowie, che sarà il Thin White Duck. Eh sì, e poi cambia anche dopo, cioè perché sì, dire... Poi arriverà il mio periodo preferito, che è quello berlinese insieme a Brian Eno, lo devo confessare. È bello anche quel periodo. Quello di Low Way Heroes. Quello lì, ma poi, cioè, tra l'altro, anche secondo me uno dei miei preferiti è anche la fine, cioè nel senso gli ultimi album, The Next Day, Black Star, per quanto Black Star sia un album veramente di una pesantezza... Forse avvertiva pazzesco. Quello che sarebbe successo. Sicuramente, ed è veramente... Boh, pesante da ascoltare, però è bellissimo secondo me, ed è un'altra cosa ancora rispetto a tutto quello che c'era prima, certo. Quindi proprio fino in fondo è riuscito a trasformarsi, sì. Tutte le volte, e sentiamoci questa trasformazione post Ziggy Stardust, che è in questa Candidate dell'album Diamond Dogs del 1974. Sempre a Tonight Alive, Radio Wombat. Like any other candidate, you'll pretend we're walking home, cause your future's at stake. My set is amazing, it even smells like a street. There's a bar at the end where I can meet you and your friend. Someone scrawled on the wall, I smell the blood of their tree cutters. Wrote up scandals in other bars. Having so much fun with the poisonous people, spreading rumors and lies on stories they made up. Some make you sing and some make you scream. One makes you wish that you've never been seen. But there's a shop on the corner that's selling caviar mache, making bulletproof faces. Charlie Manson cash is playing if you want it. Boys, better hear this. So you scream out of line, I want you, I need you. Anyone out there, anytime. Trick, whistling, number one, say dirty, I want you. When it's good, it's really good. And when it's bad, I go to pieces. Come on, boys, get in here, thing. Well, on the street where you live, I put my hold on my head. Before I put all I had in another bed. On another floor, in the back of a car. In a cellar like a church with a door drawn. Until we break up our minds, till the sun by holding hands. Così. E finisce così. Così. No, sa che ho preso una versione un po' brutale. Chiusura brutale anche per l'epopea di Zighio. È così, è normale. Lo rappresenta proprio nel totale. Eh sì. Eh no, non so se avete sentito la differenza, c'era cioè una leggera differenza con quello che abbiamo sentito finora. Appunto, poi mi stavi facendo notare il duetto delle voci che è sempre lui, è sempre Bowie anche nella seconda voce, ma nella sua incarnazione. Ma in falsetto, sì. In falsetto, nella sua incarnazione femminile. Eh sì, è bello questo duetto, sì. Appunto, cioè che è come se un eco lontano che non ce la fa andare via. Esatto, bello, bello. E questo era appunto l'ultimo brano dell'epopea di stasera di Tonight Alive con Ziggy Stardust. Basta. No, sì, vi liberiamo nel vostro sabato sera, tanto proseguirà con il concerto al Radio City del giorno di San Valentino, del 14 febbraio del 1973. Pochi mesi prima, quindi, della chiusura finale, chiusura perché l'ultima invece a luglio. Vi do un'anticipazione con la scaletta del concerto che andrete a sentire tra poco con Hang On To Yourself, Ziggy Stardust, Changes, Soul Love, John I'm Only Dancing, Moon Age Daydream, 5 Years, Space Oddity, My Death di Jacques Brel, Watch That Man, Driving Saturday, Aladdin Sane, Panic in Detroit, Cracked Actor, The Widow of a Circle, Time, The Pretty Star, Let's Spend the Night Together dei Rolling Stone, ovviamente, The Gin Genie e Suffragette City e Rock and Roll Suicide in chiusura, ovviamente, del concerto. E visto che ce ne siamo dimenticati, ricorderei sul finale, in chiusura, i nostri indirizzi, se no abbiamo già, io almeno su di te lo vedo, hai già un puntino rosso in mezzo alla fronte. Sì, mi sento minacciata. wombat.noblogs.org, il nostro amato sito, il nostro indirizzo mail che è postawombat@insiberia.net. Come vi ricordo sempre, se ci dovete scrivere, scriveteci qua nel nostro indirizzo ufficiale della mail e non da altre parti, se volete delle risposte più immediate o più serie. Sì, e poi anche la frequenza, ricordiamo. Ricordiamo ovviamente la nostra frequenza in onde medie, che è 1359 per l'area fiorentina, e i nostri canali social, che sono Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e Facebook con facebook.com/radiowombatfirenze. E a questo punto lasciamo spazio a Ziggy. Lasciamo spazio se non a ce n'era bisogno. E al sabato sera dei nostri amici ascoltatori, e da Dalai Lama e da Bloody Mary vi auguriamo un sabato sera a tutti e vi diamo appuntamento sulle frequenze di Radio Wombat a domani pomeriggio con un'altra volta sempre me un'altra volta sempre Bloody Mary in una e delle la mie Virgi, incarnazioni in una delle tue incarnazioni insieme alla Virgi con La Fuga del Gatto, la dose di musica classica di Radio Wombat della domenica pomeriggio per ristabilire lo spirito e il corpo dalle fatiche del fine settimana. Mi piace molto questa definizione. No? Molto, molto, la farò mia. Perfetto, direi. Ottimo, ottimo. Quando sei lì sul divano con la bavetta, sì, post sabato sera. Sì, sì, qua per problema è quando ci sono io, quindi no. Però vabbè, cerco di non farlo vedere dai microfoni, non si vede. Non si vede, quindi, ma non si nota neanche, vedi, vedi. Se succede, non, bene, non bene. Ti preoccupare. Bene, un saluto a tutti, buon sabato sera e alla prossima sulle frequenze di Radio Wombat. Ciao, ciao.